perché? Perché fate male a me, a me, a me. Ma ti volevo bene. Te ne sei potuta stato col plurene. Non ci posso crederla. È fatta per davvero. Questo dolore immenso come quello del Torino. Stato incornato dal suo animale. Bene, che io lo sono stato dal cellulare. Dato il tuo messaggio colmo di male, di odio, da farmi pensare. Persino al suicidio, ti rendi conto che buttata all'aria la felicità, cosa molto rara. Ma crede forte, non si fa uccidere da una come te. Anche se ho l'anima ferita, il cuore spezzato da rabbia e tristezza, sono circondato per questa ora. Sto rappando for you. Almeno poi non ti penserò più. Ti sto restituendo il male che mi hai fatto. Me ne frego se dici facciamo un contratto. Non riuscirò a trovare di nuovo un accordo. Non voglio più niente di te se non ricordo niente. Nemmeno quello sei con sentimenti truccati. Ciò che rimarrà di te sono ricordi sprecati. Tu per me sei un ricordo sprecato. Per me sei un sentimento mai nato. Tu per me vari ricordi sprecati. Sì, sì. Mettitelo in testa, baby, hai sbagliato con me. Hai chiuso, mi sono già dimenticato della raga con cui ho passato mesi della mia vita. Che quanto pare ho buttato, andrò via da te. Cambierò lato, ormai che l'ho mica alle spalle. T'ha voltato, non ne posso più di te, sono così stanco. Almeno non so solo avere amici e canto. Invece tu non avrai più nessuno a fianco. Sai cos'è un sentimento? Sei un foglio bianco. Turn around, girl, and go away. Forget me in the past, ci vuole a sé. Queste parole rimarranno sempre presse nel tuo cuore, che non è un cuore. Sono una pietra di squallore, forza di ripare altre 8 ore. Ma tra poco smetterò di dare sfogo al mio rancore. Dall'amore all'odio, 30 minuti. Come migliore sul foglio ti farò i miei saluti. Sparita, cancellata, eliminata, rimossa. Dal mio cuore svanita come da una scossa. Spazzata via da un treno in corsa. Neanche ti lascio tempo di fare la tua mossa. Ricordi sprecati non sono amati nella gang. Verrai cancellata con un click click bang. Per me sei un ricordo sprecato. Per me sei un sentimento mai nato. Tu per me vari ricordi sprecati. Sì, sì. Imagine in production, scratch on the beat again. Brava, ce l'hai fatta, parlano tutti di te. Si dice, sì. Ma perché? Perché hai fatto male a me, a me, a me. Che t'amate, ti volevo bene. Tu, tu. Te ne sei puntata, è stato colpo, un rene. Turn around, girl, and go away. Forget me in there, best, ci devo ora sei. I survive, baby, my man. And you'll be forgot by my click, click, bang. Per me sei un ricordo sprecato. Per me sei un sentimento mai nato. Tu per me vari ricordi sprecati. Sì, sì. Ricordi sprecati. Tu per me sei